Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata, l'ultima della settimana di Focus Economia, e quindi la cronaca di questa giornata economico-finanziaria in tempo di coronavirus. Dopo il fallimento ieri del Consiglio europeo, il Premier Conte, ma anche Sanchez, quindi il Premier spagnolo, hanno rifiutato la proposta che era arrivata. Avete letto sui giornali anche la frase molto dura di Conte, che ha detto, insomma, se entro 10 giorni non arriverà una proposta diverse, continuerete a proporci strumenti nati per un altro periodo e per un altro tipo di crisi di debito di un paese, che andavano risolte appunto con strumenti dedicati. Se continuerete a proporci vecchi strumenti, vi diremo grazie, facciamo da soli. Ora, perché ne parleremo? Perché si sta cercando anche di capire quale, in qualche modo, punto di caduta, quale elemento di compromesso può essere raggiunto. Poco fa il governatore della banca centrale olandese, sappiamo che l'Olanda è il paese col premier Rutte che più è ostile a una modifica dell'utilizzo del meccanismo di salvataggio e che vorrebbe invece mantenere sostanzialmente il meccanismo di salvataggio con tutte le condizionalità previste, dicevo, la banca centrale olandese, per voce del suo governatore Klaas Knot, ha preso le distanze dal suo governo, che è da sempre contrario agli eurobond, quindi a un debito garantito a livello europeo. Ha detto poco fa: questo è un test per l'area euro, quando vedi cosa accade con il virus in paesi come l'Italia e la Spagna, credo che la richiesta di solidarietà sia estremamente logica. Come attuare questa solidarietà è una decisione politica, i coronabond sono una strada, ce ne sono altre come il MES, quindi non ha escluso i coronabond, appunto un debito dichiarato garantito a livello europeo, però che fatto apposta per questa emergenza. Poco fa la Francia ha annunciato nel frattempo altri 15 giorni di confinamento, quindi la misura sarebbe scaduta 31 marzo, andrà avanti fino al 15 aprile, fino a metà aprile, e sappiamo tutti ormai che anche l'Italia si avvia verso questo tipo di posticipo, cioè nessuno si illude che nulla possa aprire prima di Pasqua. Su questo va detto che, visto che avremo anche oggi in diretta l'appuntamento con la protezione civile, va detto che in questo momento, vista le dichiarazioni anche di Fontana, del governatore della regione Lombardia, che ha detto che c'è qualche segnale positivo dalla curva, e ci sono state il picco ieri perché avevamo aumentato i tamponi ed erano dati, alcuni laboratori erano in ritardo. All'interno di una stabilizzazione può capitare che un giorno ci sia un picco, ma conferma la stabilizzazione. La stabilizzazione è sul numero di nuovi contagiati. Noi abbiamo la nostra classifica, la nostra serie storica, scusatemi, e da questo punto di vista è chiaro che la curva sui positivi era un po' aumentata ieri, più 8%, ma è vero che una settimana quasi che è sotto il 10%, più 9 domenica, più 8 lunedì, più 7 martedì, più 6 mercoledì e ieri più 8%. Ma la cosa importante, oltre che l'andamento delle morti, e anche in questo caso notiamo un rallentamento continuo, ieri sono state 9% in più, il giorno prima 10%, il giorno prima ancora era più 12, poi più 11, più 13, più 20, più 18. La cosa importante, dicevo, sarà andare a vedere qual è il numero di ricoverati, ed è questo che perché questo? Perché se tu aumenti i tamponi, cosa che ha fatto la Lombardia, è ovvio che, sappiamo tutti, che il numero di positivi al coronavirus è molto più alto di quelli che sono stati individuati, perché ci sono tantissimi asintomatici. se tu aumenti il numero di tamponi è probabile che tu trovi anche un maggior numero di positivi. Allora l'idea è quella di andare a guardare il numero di ricoverati, perché quello ti dice intanto quanto sotto pressione è il sistema sanitario e poi come sta andando anche l'evoluzione. Allora, i ricoverati da questo punto di vista totali in questo momento sono 28.365 e sarà importante vedere l'andamento della crescita dei ricoverati, nello specifico i ricoverati poi in Lombardia sono 11.944, perché sembra arrivare qualche segnale sulla parte delle terapie intensive soprattutto. Per esempio, tra ieri e oggi in Lombardia il numero di ricoverati in terapia intensiva è rimasto invariato. E poi però si va a vedere anche i ricoverati totali, perché è chiaro che tutto crea una pressione sul sistema sanitario, e quindi daremo anche le percentuali sull'andamento dei ricoverati da un giorno all'altro. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Partiremo quindi, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Partiremo con l'Europa e poi ci sposteremo anche sulla parte dei mercati. Che cosa è successo oggi? Quando Boris Johnson, io so che l'ironia sarebbe facile, visto che Boris Johnson due settimane fa se n'era uscito con quella strampalata ipotesi che sta seguendo, mi sembra, solo la Svezia ormai, dell'indennità di gregge. Poco fa la Gran Bretagna ha annunciato un nuovo record nel numero di deceduti, 180 persone nelle ultime 24 ore, e quindi la situazione in Gran Bretagna è tutt'altro che sotto controllo, ma soprattutto dopo il principe Carlo è positivo in autoisolamento Boris Johnson. I mercati già dalla mattinata hanno preso molto male la cosa, tant'è che Londra è quella che perde di più, il 5,60%. L'America non sta dando una mano, perché perde il 3,80%, 3,80% è il calo anche di Francoforte, il 4,40% di Parigi. Paradossalmente Milano in questa situazione con un meno 2,80% è la borsa che cede meno da questo punto di vista. Indennità di gregge. Ancora parleremo di questo. Sì, indennità di gregge, lo so che può fare ridere, un'indennità è un concetto quasi economico. Comunque, immunità di gregge. Dicevo, parleremo anche dell'andamento della borsa e dei mercati. Su questo ci sarà il professor Sapelli, tornerà l'uccellaccio per calcolare anche quelle che ormai sono dati condivisi da tutti. L'economia è in recessione, l'ha detto oggi il direttore generale del Fondo Monetario Cristalina Gheorghieva. Ha detto siamo entrati in una recessione uguale o peggiore rispetto al 2009. L'OCSE stima un meno 2% del PIL globale per ogni mese di stop. Le misure danno una perdita del PIL globale di 2 punti percentuali per ogni mese di contenimento, e con il turismo che rischia anche un meno 70%. Il declino della produzione dovrebbe essere del PIL fra un quinto e un quarto in molte economie. E oggi è arrivato il dato, o meglio la stima di Standard & Poor's sugli Stati Uniti. Il secondo trimestre dovrebbe vedere un crollo del PIL americano del 12,7% dopo un più 2% di inizio anno, e il 2020 dovrebbe chiudersi con un meno 1,3% complessivo contro un più 1,9% previsto. Nel frattempo le banche centrali sono pronte a nuove in Europa, ma non solo, a nuove misure per sostenere le banche dell'area euro, e anche di questo parleremo. E poi le stime invece di Prometeia, che oggi ho diffuso il rapporto, si inizia a cercare di capire quale potrebbe essere l'impatto complessivo. Prometeia oggi stima un meno 6,5% del PIL quest'anno, perché dice, ipotizzando una lenta e selettiva rimozione dei blocchi produttivi a partire da inizio maggio, il PIL farà meno 6,5%, vi sarà un rimbalzo nel 2021 più 3,3 e più 1,2 nel 2022, e poi debito PIL raggiungerà il 150%, il deficit salirà al 6,6%. È chiaro, insomma, che queste sono cifre. Qualcuno sottolinea dicendo: non parlate di guerra, non parliamo di guerra, perché le guerre sono state anche altra cosa, ma sono cifre da guerra, cioè da non da crisi economica, ma da shock economico. Le crisi sono un'altra cosa. Comunque, dicevo, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Tra i titoli di borsa oggi di non negativo c'è, cioè, Terna più 3,60, Era più 2,60, Snam più 1, Recordati più 0,50 come Case New Holland. I peggiori: Nex meno 7,20, Azimut meno 6,80, Buzzunice cioè meno 6,70, Unicredit meno 6,20, Biper meno 6 come Unipol e Mediobanca, Fineco Bank meno 5,5 come Prismian ed Eni. Mi fermo con chi perde più del 4%, Saipem meno 4,80, Ferragamo meno 4,60 come Banco BPM, Fiat Chrysler meno 4,20%. Euro su dollaro quota 1,10, sì, vabbè, siamo sempre lì. Poco mosso rapporto euro su dollaro. Andiamo con le altre notizie in breve. E sempre per capire cosa sta succedendo a paesi che sono già passati da questa crisi, penso alla Cina soprattutto. I profitti industriali in Cina hanno accusato un crollo, i profitti industriali, del 38% nel periodo gennaio-febbraio 2020. Dicevo, è crollata oggi anche la fiducia dei consumatori statunitensi, ma guardate che gli Stati Uniti ormai sono il primo paese per contagio se continuano in questo modo. E adesso vi prendo anche i dati per quello che riguarda, eccolo qua, gli Stati Uniti sono 86.000 e sono quindi contagiati, hanno superato anche la cifra, secondo molti non realistica, dei contagiati cinesi, che sono appunto, che erano 83.000, quindi 86.000 negli Stati Uniti, 80.000, ma adesso mancano i dati dell'Italia, 64.000 in Spagna. La Spagna ha fatto un balzo pazzesco oggi anche nel numero di decessi, che hanno toccato in Spagna i 4.580, e la Germania 49.000, Francia deve ancora uscire con i dati. Comunque, poi arriveremo anche a questo. Dicevo, l'OCSE prevede, l'ONU in questo caso prevede un calo del turismo nel 2020 fino al 30%, però le banche, dicevo, europee sono pronte a nuove misure a sostegno delle banche. E Berlino ha ribadito il MES è adatto, il meccanismo europeo di salvaguardia, quindi il fondo salvaguardia, è adatto alla crisi. Adesso i dati corretti sulla Gran Bretagna sono 181 morti in più in un giorno, che è un nuovo record, e 3.000 positivi in più in 24 ore. Che portano appunto il totale dei positivi a 15.000 persone. In Spagna ci sono stati 770 morti in più nelle ultime 24 ore. L'Olanda ha 8.600 contagi e 546 morti, con 2.500 pazienti ricoverati in ospedale. La parte italiana. Allora, il decreto di aprile sul coronavirus avrà altri 25 miliardi e qualcosa anche in più, da quanto ha detto il ministro dell'economia Gualtieri alle opposizioni nel corso della cabina di regia. Vi saranno quindi rifinanziati e anche rafforzati forse i 600 euro dati ai lavoratori autonomi nel decreto Cura Italia, e il decreto è in gran parte in deficit. Vi saranno anche le nuove risorse per la cassa integrazione d'aprile. Molti mi chiedevano: ma quanto? Beh, guardate che so benissimo che il decreto Salva Cura Italia di marzo e quello che sarà simile di aprile non basteranno, ma stiamo parlando comunque di 50 miliardi, forse di più, che sono diciamo, quasi due manovre finanziarie, cioè in due mesi stiamo facendo quasi due manovre, un po' di meno di quelle che varrebbero per l'intero anno. Lo dico perché la cassa integrazione in deroga, quella che permette di mandare in cassa integrazione tra il 70 e il 60% anche chi ha un solo dipendente, pesa per circa 13 miliardi e mezzo di euro nella manovra, che riguarda 9 milioni e 300 mila lavoratori. Per fare un raffronto, nel 2018 la cassa integrazione pesava per 1 miliardo all'anno e adesso pesa per 13 miliardi e mezzo nel solo mese di marzo. Tra l'altro il MEF stima negozi chiusi, vabbè, quello lo sappiamo, il 49% delle imprese chiuso, sono 2 milioni e 200 mila, e il 51% degli occupati di questa impresa a casa, 8 milioni e 600 mila persone. L'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, è favorevole ad attivare da subito prestiti che consentano ai lavoratori che non stanno andando a lavoro di poter avere un'anticipazione rispetto al pagamento dell'INPS e la cassa integrazione, cioè le banche vanno a anticipare quello che poi ti arriverà con la cassa integrazione in deroga. Allora, 349-238-6666 per sms e whatsapp. Partiamo dall'Europa e da quello che è successo ieri al Consiglio europeo, dopo la lettera che era arrivata da Italia, Francia, Spagna, ma anche Irlanda, Portogallo, Grecia, Lussemburgo, si è in maniera plastica palesata una spaccatura. È presto per dire se si tratti di tattica per arrivare poi a un compromesso o di un muro contro muro, però tant'è, tra l'altro ognuno continua a far da sé con il fatto che i paesi che hanno più margini di manovra, cioè che hanno deficit più bassi, in primis la Germania, possono continuare a spendere. L'Italia sappiamo che ha messo 25 miliardi, la Spagna 17 miliardi con le garanzie, la Francia ne spende 45 con le garanzie. E allora vediamo di capire, non è tanto l'Europa un bivio, secondo me l'Europa è un bivio nel senso che da una parte puoi ancora esistere, dall'altra se non riesci a affrontare con una risposta comune e solidale quello che sta capitando, non c'è un bivio, dall'altra parte c'è il baratro, cioè finisce l'Europa per come l'abbiamo conosciuta fino adesso. Allora, io so benissimo l'obiezione che arriva dal nord Europa o comunque che dagli osservatori, che dice: beh, ma l'Italia, in questo però anche la Francia quanto a deficit, in parte la Spagna, potevano arrivare più sane dal punto di vista dei conti pubblici a questo cigno nero, a questo fenomeno assolutamente non atteso e tremendo. Però mi sembra di poter dire che l'obiezione sì, vale, per carità, non... Conte ieri ha fatto notare che il nostro deficit l'anno scorso aveva chiuso meglio anche di quanto non avessimo promesso, invece che il 2,2 all'1,9%, però mi sembra un'obiezione un po' di carattere accademico. Sì, va bene, la puoi fare in generale, ma adesso devi capire come non far crollare sotto il coronavirus tutta l'architettura europea. Torna ai nostri microfoni la mitica, molti mi hanno chiesto ma che fine avesse fatta, la mitica era andata a lavorare con l'ex ministro Tria e quindi aveva un ruolo istituzionale. Adriana Ceretelli, buonasera e bentornata Adriana. Buonasera a voi. Allora, tu hai scritto oggi su Sole 24 Ore: l'Italia nell'occhio del ciclone, ma chi rischia è l'Europa. Le posizioni sono abbastanza abbastanza chiare, insomma, i paesi del nord dicono: non vogliamo mutualizzare, cioè rendere collettivo il nuovo debito, e quindi utilizzate gli strumenti che già ci sono, il MES per esempio, però il MES mette in parte sotto commissariamento chi lo utilizza. L'obiezione di Francia, Spagna e Italia è: scusate, il MES era stato concepito per un paese che gestisce male i suoi conti pubblici e quindi deve chiedere aiuto agli altri paesi, a quel punto si becca tra virgolette un commissariamento. Qui siamo di fronte a uno tsunami di un'epidemia nata in Cina, su cui non c'è nessuna responsabilità dei singoli paesi nel disastro che sta creando dal punto di vista economico, non possiamo rispondere con gli strumenti precedenti. Vista così, Adriana, sembrano due posizioni abbastanza inconciliabili. Sì, lo sono certamente. Il discorso che i nordici fanno, non perché lo condivida, ma perché per capire sì. I nostri avversari bisogna anche capire come ragionano, loro naturalmente non è che ci riprendano perché dice voi avete fatto le cicale, no. Loro dicono noi abbiamo fatto le formiche e non vogliamo pagare per le cicale, che è una cosa un po' diversa. E quindi secondo me alla fine si arriverà a un compromesso, perché come dicevi tu altrimenti crolla tutto e non è nell'interesse di nessuno che crolli tutto in un momento geopolitico come questo, dove praticamente non ci sono più scudi certi di nessun tipo da parte di un multilateralismo che è morto, un Trump che è comunque risucchiato dai suoi problemi interni, la Russia e la Cina che come si vede no? Cercano di in qualche modo penetrare nei paesi che sono in questo momento più fragili. Quindi io penso che anche la Merkel, la Germania, non tanto gli olandesi che pensano sempre ai quattro soldi da difendere, ma la Germania che ha una visione un po' più ampia, chiaramente non può fare crollare tutto. Quindi secondo me un compromesso ci sarà. Non ci sarà probabilmente sul MES, perché il MES, per come è concepito, inevitabilmente deve imporre una condizionalità. Perché nella vita, cioè se tu vai a chiedere un mutuo, vai a chiedere un prestito, una banca dice quali sono le tue garanzie e quando rientri e come rientri, eccetera, eccetera. Nessuno presta gratis a nessuno, soprattutto un paese come il nostro. Allora io penso, nostro non perché siamo noi, ma per l'iperdebito che abbiamo e il potenziale di destabilizzazione sia per l'Italia sia per la zona euro, perché noi non siamo la Grecia, noi rischiamo di fare veramente rovesciare la barca. Quindi io credo che alla fine un compromesso si troverà, perché è difficile non trovarlo se si vuole mantenere come minimo questo blocco geopolitico che è nell'interesse di tutti, ma soprattutto del paese più forte che è la Germania. Io penso che probabilmente alla fine si farà un euro bond, un qualcosa di simile a un bond europeo, partendo dalla BEI, non dal MES, cioè dalla Banca Europea degli Investimenti. Immaginare un veicolo di qualche tipo che raccolga sul mercato una certa somma, si parla eventualmente di 200 miliardi, ma che poi verrà ripartita pro quota. Ma io credo che quello forse sia lo strumento che meno di tutti gli altri può creare dei problemi proprio a chi teme di dover un giorno pagare per noi. In realtà per noi non ha mai pagato nessuno, perché semmai siamo sempre stati noi italiani a intervenire pro quota nei salvataggi degli altri. È vero. Però oggi la situazione è talmente grave e talmente imprevedibile, perché poi la vera verità è che nessuno sa che cosa ci aspetta. Per cui è difficile dire, come ha fatto Conte, dice sapete cosa c'è, noi tiriamo dritto per la nostra strada. Sì, è un'altra boutade che capisco che uno possa dire sul filo dell'ira, ma è una cosa che non ha senso, capisci? Perché no, da soli nessuno si può salvare. Quindi Adriana, assolutamente trovare una soluzione comune. Allora, io penso che quella sia quella forse che può mettere più d'accordo tutti. Ecco, questo è. Quindi la Banca Europea degli Investimenti come soluzione per non ricorrere al MES, perché come tu spiegavi lì proprio la struttura stessa di quel meccanismo prevede la condizionalità, cioè prevede che tu possa accedere a quei soldi a condizione che tu faccia delle cose, quindi di fatto una specie di commissariamento. Aggirare tra virgolette questo, trovare la liquidità da dare ai singoli paesi attraverso la Banca Europea degli Investimenti, più o meno uno stanziamento di 200 miliardi. Dopo il meteo vorrei chiederti un'ultima cosa invece dal punto di vista della tattica politica. Già mi stavi rispondendo in parte, dice, vabbè, quella di Conte è stata una provocazione, una boutade, tu l'hai definita. Vorrei capire politicamente come si stanno muovendo i vari attori e anche la Francia, perché in questo l'appoggio francese è fondamentale per il blocco dei paesi, diciamo, Spagna e Italia. Abbiamo visto però Macron tentare anche non di smarcarsi, ma un'operazione di mediazione, andare anche in maniera autonoma con un incontro con Trump. Quindi insomma vorrei capire anche la posizione dei vari attori in gioco. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Dopo il meteo. Focus Economia. Allora, c'è la Protezione Civile, conferenza stampa, ascoltiamo, sta parlando Domenico Arcuri per oggi. Turismi e senza particolarismi. Noi, l'Italia, stiamo facendo e dobbiamo fare fino in fondo la nostra parte. Stiamo gestendo, come sapete, da giorni tre questioni fondamentali che sono cercare dovunque siano i dispositivi e le apparecchiature che servono a combattere questa guerra, cercare di farli arrivare nei luoghi dove servono su tutto il nostro territorio prima possibile, ma nel frattempo lavorare senza sosta, chiamando ad uno sforzo eccezionale tutte le componenti produttive e sociali del nostro paese, con l'obiettivo di rafforzare la filiera industriale. Allora, adesso Arcuri sta parlando della parte di approvvigionamento, poi ci sono i dati della Protezione Civile, oggi sono arrivati prima. Dunque, i contagiati in più, però appunto il problema non è capire i contagiati, perché a questo punto ci sono stati fatti anche più tamponi, sono 4.400 in più, sostanzialmente leggermente meno rispetto a ieri, dove erano 4.492, che porta il numero complessivo di malati, quindi al netto di chi è stato chi è guarito e chi è, ahimè, deceduto, a 66.414. Ci sono 589 guariti in più di ieri, il numero totale dei guariti è di 11.000 persone a questo punto. Sentiamo ancora un attimo Arcuri. E continuiamo ad acquisire prodotti, apparecchiature e dispositivi dalla Francia, dalla Germania. Allora, fermo restando che adesso cerchiamo di capire anche il numero dei ricoverati. Comunque i positivi rispetto a ieri sono più 7%, il che non è un brutto dato, perché si veniva da, appunto, come ricordo, più 13, venerdì scorso erano più 14% rispetto a giovedì, sabato più 13, domenica più 9, lunedì più 8, martedì più 7, mercoledì più 6, ieri invece di nuovo più 8, oggi più 7%. Sembrerebbe, appunto, alla luce di quello che diceva Fontana qualche ora fa, una stabilizzazione della curva, almeno questo sì. Non ho ancora i dati, però i dati altri dati, oh, eccoli qua. Sono 3.732 i ricoverati in terapia intensiva, 120 in più rispetto a ieri, e sono 26.000 i ricoverati con sintomi, 36.000 quelli con in isolamento domiciliare. Allora, adesso avremo anche diciamo un'analisi più accurata fra un po'. Volevo concludere con Adriana Ceretelli, il tema dell'Europa. Però Adriana, la tattica che esiste in questi casi politica, tu hai già detto, quella di Conte è stato un azzardo in qualche modo, perché nessun paese può andare avanti da solo. E come vedi procedere invece la parte, appunto, di tattica politica e diplomatica di Germania e Francia? Beh, certamente la Francia in questo momento è allineata con noi, ma la Francia è comunque, diciamo, saldamente ancorata alla Germania, né intende disancorarsi, ovviamente. In questo momento gioca anche un ruolo di mediazione tra i due schieramenti. La Francia ha interesse, come noi, come la Spagna, come il resto della coalizione dei nove, ad avere, appunto, un aiuto europeo serio, ma a livello europeo, perché non vada a gravare sul debito dei singoli paesi. Non ci dimentichiamo che la Germania aumenterà il proprio debito, come ha aumentato il proprio deficit, rimangiandosi gli impegni costituzionali che aveva preso con se stessa, proprio perché l'emergenza è quella che è. Ma i paesi che hanno un carico di debito grosso, come il nostro, ma non solo, hanno bisogno di questa valvola europea per procurarsi della liquidità sui mercati che non vada a gravare sul proprio debito. Quindi se esce un bond, un aiuto, che comunque non va a gravare sul debito, è bene anche per il messaggio che tu dai ai mercati, non solo di coesione europea, ma anche della volontà dell'Europa di alleggerire i fardelli in un momento di estrema emergenza. Certo. Quindi la tattica dell'Italia è certamente quella di cercare di tirare dalla propria. E io penso che alla fine ci riuscirà, non ci riuscirà magari come avrebbe voluto con un eurobond in grande stile, eccetera, perché non è il momento, perché le divergenze dentro l'Europa, dentro alle situazioni finanziarie europee sono ancora molto, molto forti. Quindi è ovvio che è difficile mutualizzare i rischi in questa situazione, obiettivamente, però c'è un'emergenza, quindi se si trova un sistema comunque per dare un aiuto europeo in questa chiave che dicevo, io penso che si possa, cioè non è il migliore dei mondi possibili, ma è quello possibile nella situazione data, questo che voglio dire. Non possiamo pretendere che gli altri ci tirino fuori le castagne dal fuoco, era un po' quello che scrivevo oggi, cioè noi dobbiamo anche pensare al dopo, pensare a fare quelle famose riforme che non abbiamo mai fatto, soltanto rimettendo in moto la nostra crescita in una maniera normale, non quella crescita ridicata che abbiamo avuto negli ultimi anni. Solo così noi possiamo rendere il nostro debito assolutamente sostenibile e quindi non avere più questo incubo sulla schiena, no? Sì, no, è chiarissimo il tuo ragionamento, Adriana, e ho capito anche, tu dici, alla fine attraverso questa formula della Banca Europea degli Investimenti si potrebbe trovare la quadra e quindi non toccare il MES, ma avere uno strumento a cui attingono poi in proporzione i vari stati, più o meno valutato in 200 miliardi. Grazie anche ad Adriana Cerretelli. E io vorrei restare su questo tema allargandolo anche se possibile, ma intanto partendo dall'Europa con un ospite che abbiamo chiamato l'uccellaccio, però in questo periodo non c'ho voglia di mettere Carmine Burana, quindi continuiamo con la base. Chiaramente mi riferisco al professor Giulio Sapelli. Allora, vedo che anche l'ex presidente della Commissione Europea Prodi ha detto ieri il Consiglio Europeo è stato terribile, però al di là di questo vorrei capire, intanto ringrazio il nostro uccellaccio per essere tornato in collegamento. Buonasera professore. Buonasera dottor Barisoni. Allora, un ultimo aggiornamento, perché la Lombardia ha registrato, però anche qui sempre con massima prudenza, dove cavolo è che me la sono persa adesso, un rallentamento, per quanto, eccolo qua, lieve calo contagi e ricoveri in Lombardia, l'ho detto Gallera, l'assessore regionale del welfare, la crescita è stata di 2.400 positivi, mentre ieri erano 2.543, i ricoveri, che è la cosa che stiamo guardando con più interesse, nei reparti non di terapia intensiva sono stati 456, mentre ieri erano stati 655, quindi 200 ricoveri in meno, 29 nuovi ricoverati in terapia intensiva. Speriamo che siano appunto segnali di un appiattimento della curva. Professor Sapelli, abbiamo appena avuto Adriana Cerretelli, insomma, come analisi delle varie posizioni, mi dia però un suo commento su quello che è successo ieri al Consiglio Europeo. La Cerretelli diceva si troverà poi un accordo probabilmente attraverso la Banca Europea degli Investimenti per non toccare il MES, perché nessuno può immaginare una rottura, verrebbe giù tutta l'architettura europea. È probabile che accada, perché la Cerretelli con la sua solita intelligenza ha centrato il problema. Si è formato il MES perché i tedeschi le nazioni anseatiche e nordiche rifiutavano un MES senza condizioni. Però quindi si farà fuoco con la Banca Europea degli Investimenti. Però bisogna dire che la Banca Europea degli Investimenti, adesso non possiamo stare lì a snocciolare cifre, eccetera, non ha la potenza di fuoco necessaria. Potenza di fuoco necessaria per risollevare l'Europa, perché quando si tratta di una crisi esogena all'economia, come la pandemia, e come lei ha detto già altre volte, colpisce sia l'offerta che la domanda, in un continente che ha più o meno la popolazione degli Stati Uniti bisognerebbe fare una manovra superiore ai 2 miliardi di dollari che ha fatto... 2000 miliardi. 2000 miliardi, che chiedo scusa, ragionavo con i 2 trillion sì. trillion of dollar, 2000 miliardi di dollari. Perché? Perché poi gli Stati Uniti hanno fatto una cosa che la Banca Europea degli Investimenti non è in grado di fare, perché le istituzioni economiche europee, anche la Banca Europea degli Investimenti, che va già molto meglio del MES, non possono far altro che dare liquidità e garanzie di credito. Ma noi non possiamo più dare liquidità e garanzie di credito. Dobbiamo sostenere, assieme alla domanda che si può fare con le cotte armoniche, dobbiamo sostenere il profitto capitalistico, perché se no non creiamo fonte salari. Quindi bisogna di nuovo sostenere le imprese, ci va molti più soldi. Se lei guarda la manovra nordamericana, pensi, difende addirittura soprattutto le small business stream, cioè le piccole imprese, e i lavoratori interinali. Non parliamo poi dei soldi che dà per sostenere i disoccupati e i lavoratori temporaneamente assenti dal lavoro. Questa potenza di fuoco la Banca Europea degli Investimenti da sola non ce l'ha. Ok, allora, per andare con ordine, professore, dopo il traffico vorrei capire un po' di cose, perché io ho sempre detto che per esempio il reddito di cittadinanza, l'ho detto in tempi non sospetti, non mi ha mai convinto come strumento per trovare lavoro, ma l'ho sempre definito uno strumento positivo da una parte del welfare, e cioè la pensionata con la minima o chi sta per arrivare è stato espulso dal mondo del lavoro, insomma quello che era il reddito di inclusione fatto tardi e male dal governo Gentiloni, fatto... E questo lo dico perché a chi mi scrive del sud, beh, noi abbiamo uno strumento ulteriore in questo momento, la cassa integrazione di welfare, non per trovare lavoro, che è il reddito di cittadinanza. Però vorrei capire dopo il traffico una cosa: i soldi non sono illimitati. Allora qui i suoi colleghi che abbiamo invitato nei giorni scorsi sostanzialmente si dividono tra chi dice facciamo l'helicopter money, e quindi quello che ha detto Trump, do direttamente 1200 dollari a tutto un insieme di americani e glieli metto in tasca, e c'è chi dice no, attenzione, perché siccome qui il problema, come diceva anche lei, è anche nell'offerta, non è solo nella domanda di consumo, se tu hai un'attesa negativa sul futuro, questi soldi, a meno che tu non sia proprio con l'acqua alla gola, non li spendi, li metti da parte. Meglio sarebbe intervenire sulle imprese, e cioè garantendo la tenuta dell'occupazione a costo di mettere noi soldi come Stato, sospendere i contributi, dare delle forme anche di agevolazione fiscale, sospendere alcune, cioè tutti elementi che pagheremmo con i soldi pubblici, ma che permetterebbero alle imprese di non andare in affanno di liquidità, visto che non stanno fatturando in questo momento. Vorrei sapere quali delle due lei preferisce come metodo, non che si debba fare solo una, ma fare tutte e due assieme mi sembra un po' difficile, dopo il traffico. Focus Economia. Allora, professor Sapelli, per dirlo in maniera un po' semplicistica, helicopter money, cioè soldi dati direttamente ai consumatori, che però non li daresti alle imprese, e con il rischio che se uno non si fida non va a spendere, oppure soldi dati ai settori di impresa, che non significa non darli ai lavoratori, perché è chiaro che se io, per esempio, sospendo i contributi, li faccio a carico dello Stato, sospendo alcune scadenze fiscali e un insieme di altre iniziative, rifinanzio la cassa integrazione in deroga, li sto dando anche ai lavoratori, cioè evitare che le imprese vadano a licenziare. Quale delle due? Naturalmente, io sono un economista non keynesiano, ma strutturalista, post-marxista e schumpeteriano. Quindi la chiave... perché qui, ragazzi, c'è la gente che parla senza una base teorica, quindi dice stupidaggine. Allora, bisogna sostenere l'offerta assieme alla domanda. Quindi non solo bisogna sostenere le imprese, ma bisogna fare le imprese. Perché tra un po' le imprese che abbiamo non potranno più da solo sostenere la domanda e la creazione di massa salariale. Quindi, dato che l'impresa pubblica è un segmento della teoria della finanza pubblica, bisogna estrarre imposta o finanziare con lo Stato nuove imprese. Tra un po' dovremmo creare nuove imprese, anche per salvare le imprese che stanno crollando. Se vogliamo salvare l'Alitalia, dobbiamo nazionalizzarla, creare, o creare una nuova impresa che si occupi della nostra possibilità di avere un trasporto, soprattutto merci, più che passeggeri, che ci consenta di connetterci col mondo. E dobbiamo anche affrontare il grande problema che questo paese ha delle sue infrastrutture logistiche e trasportistiche, che stanno crollando. Abbiamo metà dell'Italia che è disabitata dopo la fine della protezione civile, che l'hanno cambiata, e abbiamo metà dell'Italia che si sta desertificando, come il centro della Francia e il centro della Spagna. Quindi questo vuol dire che noi stiamo solo prendendo tempo, ma arriverà il momento che dovremo cambiare la Banca Centrale Europea. Dovremo trasformare la Banca Centrale Europea in Federal Reserve. I nuovi paesi che hanno firmato la famosa lettera che ha provocato il fatto che il Consiglio europeo si è chiuso senza approvazione di un ordine del giorno, di fatto pongono sul terreno questa cosa. È significativo che se ne siano andati la Slovenia e l'Irlanda, due nazioni, una è nata dalla costola della Germania, che provocò poi le guerre balcaniche, certo, per averla riconosciuta, e l'altra, l'Irlanda, come sa, era l'alleato dei falchi contro la Brexit. Quindi il fatto che adesso lei se ne vada vuol dire che cambia anche la configurazione del rapporto con il Regno Unito, con l'Unione Economica Europea. Quindi questa cosa, questa crisi pandemica, deve metterci in testa, come dico nel mio ultimo libro, faccio un po' di propaganda, sì, che è appena uscito per Goguerre e per Guerini, Pandemia e Resurrezione, come dico nel mio libro, è la volta buona per ripensare l'Europa. L'ha capito, perché chi vuole porsi alla testa di questo? L'ha capito la Francia, che parla per i tedeschi, non certo per gli americani, perché vuole offrire alla Merkel una via di difesa, ma nello stesso tempo parla con Trump e parla con gli Stati Uniti. Quindi bisogna cominciare. Se vogliamo salvare l'euro, bisogna mantenere l'euro trasformando le istituzioni economiche europee. La prima cosa da fare è creare una banca centrale che ha illimitati mezzi di liquidità, se no siamo morti. Allora, andiamo con ordine, perché la prima urgenza è appunto avere un fondo a cui attingere. Ho ben capito. Sì, va bene, attingiamo, ma però poi lei dice no, ma certo, poi lei dice attenzione che siccome parte del sistema produttivo non reggerà, certo, bisognerà andare a nazionalizzare. Ma se ho ben capito, bisognerà fare imprese nuove come abbiamo fatto nel 45. Questi che parlano di piano Marshall si sciacquano la bocca, ma il piano Marshall non è solo stato creazione di soldi, di liquidità, si sono create delle imprese. Si è creato l'IMI, si è ripristinato l'IRI, si è creato l'ENI, si è creata quello che poi chiameremo Finmeccanica, si è creato un fondo nazionale di finanziamento dell'industria meccanica. Lei crede che possiamo sostenere l'artigianato, la piccola e media impresa, senza un fondo di finanziamento, che vuol dire crearlo? Ma non si può fare niente. E 10 giorni possono essere terribili, può arrivare la catastrofe. Senta, nuova IRI, quindi, a questo punto, non mi piacciono gli slogan, insomma, a parte diciamo, le misure tampone di questi giorni, lei dice, attenzione, bisogna assolutamente andare a una nazionalizzazione o che possa assorbire. Nel senso che bisogna cambiare tutto. Io per esempio ho delle idee chiare, non bisognerà più avere i consigli d'amministrazione, bisognerà avere dei civil servant, degli amministratori unici, bisognerà fare in modo che lo Stato agisca forse anche come un not for profit, che tutti i soldi che si fanno da quelle imprese non vadano degli azionisti pubblici, ma vadano a rifinanziare la nascita delle imprese. Bisogna inventarsi un mondo nuovo. Sì, vedo che c'è già un dibattito in corso su cosa fare dei dividendi, per esempio, delle banche. La raccomandazione europea è dire, scusatemi ragazzi, quest'anno invece che distribuirli a manager e azionisti, reinvestiteli. In effetti non mi sembra un grande anno per i top manager da questo punto di vista. Senta, Sapelli, questo in che tempi? Perché a tutti, a nessuno sfugge che adesso stiamo mettendo dei tamponi per non far uscire i soldi dalle tasche degli italiani, e quindi appunto sospensione mutuo e le rate fiscali che vengono posticipate, cassa integrazione in deroga, i 600 euro. questo potrà reggere ancora forse per aprile, poi dovrà iniziare a buttare dentro i soldi, quelli del fondo, diciamo, che si è esso bei o quant'altro. Insomma, lei che tipo di tempi vede su questo? Io vedo di che si sta perdendo tempo. Si sta perdendo tempo. Bisogna che la Francia si metta alla testa di questo gruppo, Medicon sicuramente con gli Stati Uniti, si metta alla testa di un'Europa latina. Bisogna tenersi conto che bisogna premere perché rapidamente si mettono in moto delle misure europee. Se no sarà una situazione molto molto grigia, perché vede, anche la questione che noi defiscalizziamo, in questo modo finirà che la ragioneria di Stato rimane senza soldi. Eh beh, certo. Allora soldi. Qui anche queste cose, la via fiscale non è una via di fuoriuscita, è un pannicello caldo, ma nel contempo bisogna fare una mossa del cavallo. Defiscalizzi, ma però crei nuova occupazione e nuovo profitto, perché quello che va a mandare è il profitto. Se cadono il profitto, cade tutto. Quindi bisogna agire rapidamente. Bisogna agire rapidamente con la BEI, certamente immediatamente, ma non bisogna aspettare le decisioni tedesche. Bisogna richiedere un voto a maggioranza nel Consiglio e nella Commissione. Lo possiamo fare. Ecco, lei non ritiene che però, lì è la Germania molto scettica, però è passata l'immagine di un'Europa bloccata da Olanda e Finlandia. Ora, insomma, no, okay. Chi blocca l'Europa è la Germania, con gli stati anseatici che gli vanno dietro. Scusa, l'Olanda, che è un paradiso fiscale, è un luogo dove chi non vuole pagare le tasse. Mm-hmm. Oggi, voglio dire, a questo gruppo si è unito addirittura il Lussemburgo. al nostro gruppo. L'altro ieri ha avuto i nove che hanno fatto la lettera, ha avuto Juncker come commissario. Allora, è la Germania a cui si uniscono questi staterelli, insomma, a cui sfuggono frasi come quelle gli italiani e gli spagnoli devono mettere. Sì, ma quello è quel, non voglio dare epiteti. Klaus Riegling, che è il numero uno del MES, vabbè, io spero ancora nelle sue scuse comunque che si faccia le vacanze quest'estate in Germania. Allora, una cosa volevo dire a chi mi sta scrivendo, guarda che non, sì, c'è il tema della domanda, perché molti mi dicono, ma dare dei bonus, dei voucher come ipotizzato alle famiglie, per esempio se voucher per gli acquisti, oppure addirittura Federalberghi propone defiscalizzare o detrarre le spese in alberghi, questo è un conto, e questo vuol dire, diciamo. Però attenzione che l'altro lato a cui faceva riferimento Sapelli, che è la prima volta che noi vediamo una doppia crisi, cioè domanda, consumi, ma anche offerta, perché si sono bloccate le filiere del valore, si sono bloccati gli approvvigionamenti, lì devi intervenire entrando quasi nell'impresa, o comunque o le permetti di vivere, oppure tu diventi azionista di questa impresa, perché sennò non è solo un problema di consumatori e consumi, è un problema anche di chi deve produrre i beni. Questa è la differenza di questa maledetta tenaglia. Professor Sapelli, resti con noi, adesso il GR24 349 238 6666 per sms e WhatsApp. Il segnale orario vi è offerto da San Marco Informatica, consulenza per la digital transformation. sanmarcoinformatica.com. Focus Economia. Minuti. Allora, abbiamo dato l'aggiornamento, c'è ancora in collegamento il professor Giulio Sapelli, però c'è una notizia che abbiamo dato prima, che due notizie che erano positive, ossia il numero di nuovi contagiati di 4.400, quindi è assolutamente identico a quello di ieri, quando i nuovi contagiati furono 4.492, e l'altra buona notizia riguardava il rallentamento leggero segnalato in Lombardia. Purtroppo c'è una brutta notizia, ed è il numero di morti, perché sono 969 in un giorno, mai così tanti da quando è iniziata l'emergenza. Giovedì erano stati 662, ci sono 50 vittime relative a ieri non conteggiate, però comunque, anche se al netto di queste, sarebbero 919, la cifra più alta da quando, ahimè, è iniziata questa vicenda. Allora, professor Sapelli, al di là di questa, che non è sicuramente una buona notizia, ci mancherebbe, però due domande mi sono rimaste ancora in evase. La prima, alcuni suoi colleghi, sono economisti, in questi giorni che abbiamo avuto ospiti, dicevano: attenzione, si può pensare, oltre alla Banca Europea degli Investimenti, così, a una forma di prestito che fu utilizzata, se non ricordo male, per l'Unità d'Italia, che restò in vigore, il famoso prestito irredimibile, cioè un prestito che tu non ritorni mai, però trattato sul mercato, per cui lo Stato dà gli interessi a chi lo sottoscrive, poi eventualmente chi l'ha sottoscritto può anche rivenderlo sul mercato. Addirittura ci furono casi in cui era conveniente perché rendeva tanto. Vorrei sapere che cosa la convince e se la convince questa ipotesi. Innanzitutto, per rispetto al servizio che lei ha effettuato, è stato rapido, perché sto seguendo il Papa, il Santo Padre, quindi spero che Dio mi perdoni per questo cedimento alla vanità parlando con lei. Poi tornerò alla preghiera, perché c'è bisogno anche di pregare, non solo di scettare in economia. Vengo al dunque. È uno strumento, naturalmente, che abbiamo usato. Si può usare, naturalmente, chi mette in atto questi strumenti, generalmente sono governi dotati di grande sostegno popolare e che sanno infiammare i cuori. Non mi sembra che sia il caso di questo governo, che è diretto da un primo ministro non eletto, a cui però tutti dobbiamo confidare e dobbiamo stringersi attorno a lui, perché in questo momento non è il momento di fare polemiche politiche. È uno strumento, ma non può certo essere uno strumento risolutivo, è un palliativo. L'altra... molto più utile la preghiera. Ok, questo dipende appunto se uno è credente. L'altra, esatto, cosa, io sono un cattolico credente, quindi penso che sia più utile pregare che queste cose. Per lei sicuramente. L'ultima domanda invece, si parla tanto di piano Marshall, sì. Però, e qui entriamo sull'equilibrio geopolitico a livello mondiale, però certo, molti fanno notare che a suo tempo l'America aveva tutte le fabbriche non solo non bombardate, perché dopo la seconda guerra mondiale, ma a pieno ciclo produttivo, quindi fu più facile, c'era un paese sostanzialmente illeso nella parte manifatturiera che diede i soldi e scaricò anche un eccesso produttivo su Germania, Italia e in parte anche Francia e Gran Bretagna. Adesso si fa notare che l'America stessa è in difficoltà, quindi un aiuto esterno da questo punto di vista è impensabile adesso, per usare l'esempio del 45-46. Sì, ma guardi che l'aiuto non deve essere esterno, ripeto di già, l'Europa è uno dei continenti più ricchi e più produttivi del mondo, con una produttività del media del lavoro, come lei sa, è stato un dibattito con gli economisti che hanno parlato prima di me, dovrebbero sapere. Noi abbiamo avuto a lungo una produttività del lavoro più elevata di quella nordamericana. Quindi possiamo farcela da soli, ma bisogna cambiare le istituzioni europee. Siamo gli unici paesi, quelli che aderiscono al trattato internazionale che fonda una unione economica senza costituzione, a non avere una banca centrale. Se noi avessimo una banca centrale avremmo risolto il nostro problema. Quindi questo deve essere un monito, perché rapidamente si strappi il dominio dell'Europa alla Germania e ai suoi vassalli, e grazie anche all'aiuto della Francia, e se c'è bisogno degli Stati Uniti dal punto di vista di una pressione geopolitica, perché se la crisi europea continua porta a fondo l'economia mondiale. Questo è il problema. Quindi ce la possiamo fare da soli, basta tenere l'euro e cambiare le istituzioni europee. Chiarissimo il suo ragionamento, grazie anche al professor Giulio Sapelli in collegamento con noi. Per quello che riguarda Standard & Poor's, c'è poche novità, oggi con alcune sulle stime della recessione. Qualcuno mi chiede i mercati hanno chiuso: Milano meno 3,15, Parigi meno 4,23, Francoforte meno 3,70, Londra è la peggiore, meno 5,25%, molti indicano anche la positività al virus di Boris Johnson tra i motivi delle vendite, che oggi sono soprattutto, non solo, ma soprattutto a Londra. Dow Jones meno 3,30%, 349-238-6666 per sms e WhatsApp. Chiaramente è presto adesso per fare stime, però c'è già chi sta iniziando a mettere assieme i numeri e capire anche, immagino, mese per mese qual è il danno che si sta arrecando all'economia. È uscito oggi il rapporto del Centro Studi Prometeia che va a calcolare danno immaginando una lenta e selettiva rimozione dei blocchi produttivi a partire da inizio maggio. Ne parliamo dopo il traffico. Focus Economia. Allora, è appena arrivata la notizia, ahimè una conferma, circolava da qualche ora, salta anche il Salone del Mobile di Milano, per carità. Però è un altro elemento che va ad aggiungersi, abbiamo visto anche il rinvio al 2021 del Vinitaly, aveva tentato di riposizionare la data a giugno, però adesso è arrivata la conferma, salta definitivamente l'edizione del 2020, si dà appuntamento direttamente dal 13 al 18 aprile del 2021. Dottoressa Stefania Tomasini, responsabile dell'area analisi e previsioni economiche di Prometeia, buonasera. Buonasera. Senta, mi dica, voi avete stimato un meno 6,5% il PIL dell'Italia quest'anno, ma sulla base, chiaro che sono tutte stime ancora provvisorie, sulla base di quale scenario? Come anticipava lei prima, noi ipotizziamo che gli attuali blocchi vengano mantenuti sostanzialmente fino alla fine di aprile e che poi progressivamente si possa procedere a un allentamento dei vincoli e quindi ritornare a una situazione di, diciamo, quasi normalità nel corso dell'estate, anche se difficilmente si potrà tornare velocemente alla situazione pre-crisi, perché tutta una serie di settori, pensiamo innanzitutto al turismo, ovviamente non per quest'anno non potranno riprendere come in assenza del virus. Lei ha ricordato appunto la posticipazione all'anno prossimo, l'annullamento di importanti manifestazioni, quindi ci saranno dei danni permanenti, diciamo, da questa vicenda, però compatibilmente con questa ipotesi, sia appunto, ripeto, di ripresa nel corso del mese di maggio, stimiamo questa possibilità di una caduta che si fermerebbe al 6-5%. Ecco, non nascondendole voi... che non nascondendole. Con una qualche forse grado di, come dire, ottimismo. Senta, voi poi nello scomporre però i vari settori, ho visto che il meno 6,5% quest'anno arriverebbe come conseguenza appunto di una ripresa lenta, ma da maggio in poi. Però dentro i vari settori i cali sarebbero molto diversi. Molto diversi, perché una caratteristica di questa crisi è proprio quella della simmetria tra settori. Ovviamente i servizi, tutta la filiera del turismo, dell'intrattenimento saranno i più colpiti. Noi calcoliamo una caduta del circa il 30% dei servizi legati al turismo nell'intero anno, adesso siamo ovviamente a zero, e meno 16-17 trasporto, appunto attività legate all'intrattenimento e quant'altro. Quindi ci sono delle differenze molto molto forti, e soprattutto quello che emerge è che questi settori sono settori principalmente caratterizzati da piccole imprese, imprese artigiane, commercianti, quindi anche imprese più fragili dal punto di vista finanziario, che contemporaneamente hanno una forte intensità di lavoro, quindi con rischi sull'occupazione molto, molto elevata. Quindi se con le misure di politica economica, che peraltro si stanno prendendo, sono state annunciate altre, sono assolutamente necessarie e anche ben indirizzate, ecco, per quello che riusciamo a leggere e interpretare noi, è importante che questi settori vengano aiutati a non, queste imprese vengano aiutate a non fallire banalmente, quindi aiutate per la gestione della liquidità, quindi che non ci siano crisi di liquidità, che i lavoratori siano assistiti con appunto cassa integrazione in deroga e tutti gli altri ammortizzatori che si possano trovare, perché è appunto assolutamente fondamentale, proprio per capire quanto si potrà velocemente uscire, riuscire appunto a mantenere il tessuto produttivo pronto, sì, vivo e in grado di ripartire. Sì, ma che è quello che diceva prima anche Sapelli con la postilla, attenzione che poi in alcuni casi bisognerà proprio entrare, costruire nuove società, lo Stato dovrà entrare per evitare appunto il crollo non solo di alcuni settori produttivi, ma anche dell'occupazione che è collegata. Assolutamente. A me ha fatto anche un po' impressione quello che voi avete usato come raffronto per la grande recessione del 2009, quando appunto si videro gli effetti del crollo finanziario di Lehman Brothers, non solo, si bloccò la finanza e quant'altro, le banche non si fidavano tra di loro, però la caduta globale allora era stata dello 0,4%. Voi quest'anno stimate una recessione economica che è quattro volte quella del 2008-2009? Sì. È molto più concentrata, abbiamo fatto appunto molti confronti perché chiaramente la dimensione della caduta è per molti paesi comparabile, per il nostro paese è più forte questa caduta che non quella del 2009. Quindi parliamo veramente di un fatto che non abbiamo mai registrato in, ahimè, in tempi di pace. Quello che vediamo e che è possibile, appunto, che è condizionato che condiziona questa previsione, è che se ci sarà la ripresa ci fermeremo a questo punto, mentre la recessione del 2008-2009 è stata una recessione profonda ma molto più lenta. Qui potremmo, compatibilmente appunto con la possibilità di uscire velocemente, potremmo risalire già nel corso dell'anno, e quindi sarebbe molto forte ma molto concentrata nel tempo. Cioè più una figura a V che a V. Anche se la nostra previsione ovviamente è che la, come dire, seconda gamba della V non sia con la pendenza della prima, quindi ci sia una ripresa abbastanza veloce ma non così come è stata rapida la discesa. E credo che proprio il tema della velocità è un tema che per esempio Draghi ha richiamato nel suo intervento su Financial Times, che è in questo momento veramente urgente fare tutto quello che le politiche possono fare, perché un evento così drammatico, perché appunto non si è mai verificato, possa essere limitato nel tempo e non lasciare degli strascichi e poi davvero molto difficili da recuperare, specialmente per un paese come il nostro che in 10 anni ha ormai subito 3 grosse recessioni dalle quali, non, come ben sappiamo, non si è sollevato, se non in misura limitata. Sì, quindi voi dite attenzione che sarà una V probabilmente, se appunto i tempi saranno più o meno quelli, ma con la seconda gamba più debole della prima, e quindi in effetti il 2009 ci mise molto perché tutto l'anno venne ancora passato in recessione, qui l'intensità è più forte, però anche forse il recupero arriverà prima. Qualcuno dice siete ottimisti? No, questo è alla luce delle politiche che devono essere ancora varate, mi riferisco, quindi ripartiamo dal primo tema con cui abbiamo aperto, l'accordo che bisogna trovare in Europa, non è al netto di quello, è anche grazie a quello, per cui lì poi sarà fondamentale vedere il tipo di accordo che verrà fatto e i finanziamenti che verranno resi. Però insomma era importante anche iniziare a dare qualche prospettiva, grazie alla responsabile dell'area analisi e previsioni economiche di Prometeia, Stefania Tomasini. Allora, nel ringraziare, ho ricevuto molte richieste di rimandare in onda il mitico Vasco Rossi per dare un minimo di speranza in questi giorni, allora lo faccio volentieri, una versione un po' ridotta rispetto a ieri, consenso, prima di, però ringrazio come sempre Maria Sole Lisciandro e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione e in regia anche questa settimana, auguro a tutti voi un buon fine settimana, a partire da chi dovrà trascorrere lavorando e tutti gli altri invece a casa. Vediamo appunto se i dati che usciranno mostreranno, come stanno ripetendo anche i virologi, un appiattimento della curva al di là del dato tragico sui morti, sul nuovo record di morti. E comunque noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Vai con Blasco. Voglio trovare un senso a questa situazione, anche se questa situazione un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa condizione, anche se questa condizione un senso non ce l'ha. Penso a tante cose, anche se tante cose un senso non ce l'hanno.